Capitolo 13. Venezia, 6 marzo 1546. Scendiamo dal ponticello in Calle de Bottai. Marco arranca con il carretto, strapieno di vettovaglie. Lo precedo, ma mi accorgo subito che c'è qualcosa di strano. Non c'è passaggio. Quattro tipi ben piantati bloccano la strada. Uno di loro è il mulo. Anche Marco li vede. Rallenta. Uno sguardo, prendo il carretto. Vienimi dietro. Scendo piano, li punto. Il carretto come un ariete. Ne incastro uno contro il muro, gli altri si fanno sotto, coltello in mano. Scalpiccio alle mie spalle e le urla terrorizzate di Marco. Tre sagome sbucano di corsa, spade sguainate e imprecazioni portoghesi. Il mulo e i suoi rallentano. Uno dei portoghesi mi affianca, gli altri due corrono avanti, spade puntate. Gli sgherri del mulo se la battono. Duarte Gomez tiene la punta alla gola dell'unico rimasto. Mi piacerebbe ammazzarvi come un cane, signor. I fratelli Michez tornano a passo svelto. Joao sorride e grida in fiammingo. Non ne vale la pena, compare? Gomez gli fa una virgola sulla guancia, un baffo di sangue. Fila via, bastardo. Scappa verso il canal grande. Sembra che debba esservi grato, don Joao. Il portoghese rinfodera la spada, una toledana fregiata, fa un inchino e ride. Poca cosa rispetto alla splendida ospitalità dell'altra sera. Il minore dei Michez, Bernardo, tranquillizza donna Demetra. Non avete più nulla da temere, signora. Quei quattro straccioni non vi daranno più noia. Lo spero, messeri, lo spero davvero. Vi sono infinitamente grata. Ne siete così sicuro? È il maggiore a rispondermi. Non v'è dubbio. In certi ambienti le voci viaggiano rapide. Da oggi in poi sarà noto che un torto fatto a voi o alle vostre ragazze sarà come fatto a noi. La vostra famiglia è dunque tanto potente? Don Joao parla lentamente, cercando di cogliere la mia reazione. Quella sefardita è una grande famiglia, i cui membri sono abituati a darsi manforte l'un l'altro per resistere alla difficoltà di essere da sempre stranieri in terra straniera. Un istante di silenzio. Sono sorpreso. Non capisco come io e donna Demetra potremmo far parte della vostra famiglia. Se accettate il mio invito a pranzo, vi darò volentieri qualche chiarimento. La lunga barca taglia il canal grande per imboccare il rio di San Luca. Le imprecazioni del gobbo Sebastiano, nocchiero di Michez, non si contano, dirette a chiunque incroci la prua. Così da ragazzo ho sempre immaginato il traghettatore dell'Ade, durante le lezioni classiche del dotto Melantone. Sporco, con una massa di capelli aggrovigliati che il copricapo non riesce a contenere, emana un tanfo di marcio che dalla poppa si fa strada fino a noi. Ricurvo, spinge il lunghissimo remo quasi in verticale sopra lo scalmo. Michez è un uomo d'intuito. Abbiamo brindato alla morte dei traditori, ricordate? Il bell'aspetto e le buone maniere non contano davanti alla lealtà di un servitore fedele. Scendiamo Rio dei Barcaroli, superando uno slargo che pare una piscina, poi si restringe all'altezza di un piccolo ponte. Michez mi indica, alla sinistra. La chiesa di San Mosè. Venezia è l'unica città cristiana in cui ci sono chiese dedicate a profeti del Vecchio Testamento. Non pensate che ciò sia stato concesso per generosità verso i giudei convertiti al cristianesimo, quelli che chiamano i nuovi cristiani o con più disprezzo marrani. Noi contiamo molto qui. Don Joao, sono molto interessato a quanto andate dicendo. La simpatia verso i profughi di tutte le confessioni è quasi un moto istintivo per uno che è sfuggito per tutta la vita a preti e profeti. Spero che non siate parco nei vostri racconti. Davanti a una tavola ben apparecchiata, non avremo bisogno di nasconderci niente. Sbuchiamo in fondo al Canal Grande, di fronte alla dogana. Non riesco a trattenere lo stupore per l'enorme traffico in entrata e in uscita dal canale. Un brulicare di imbarcazioni d'ogni foggia e forma nella via principale di Venezia. Brigantini e caracche attraccate al grande molo di San Marco, galere che prendono il largo, un via vai di imbarcazioni a remi e a vela di ogni dimensione. E le imprecazioni di Sebastiano a farsi largo. Puntiamo sull'isola di Giudecca.